Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Una delle obiezioni ricorrenti quando si ascoltano le storie di chi cambia vita è quella di chi dice: ma che bisogno c'è di andarsene, di scappare, di andare via, di cambiare tutto? Queste sono fughe, sono rinunce, sono un gettare la spugna. Bisogna rimanere al proprio posto e lottare, e non cercare di andare via per cambiare da soli la propria vita, ma rimanere e cambiare il mondo, migliorare il posto in cui si vive, migliorare il mondo. Ecco, io la capisco questa posizione, sono anche abbastanza d'accordo. Non è sempre necessario cambiare vita, basta cambiare il mondo. E la domanda è: chi lo cambia il mondo? Non vedo mani alzate, quindi faccio qualche ipotesi. Gli altri chi? Il governo? Certo, i governi hanno sempre cambiato. E gli alieni, visto che ormai un sacco di gente vede gli... No, ma quelli, figurati, ci avranno i loro problemi. Chi lo cambia? Mi sa che tocca a noi. Cioè, noi dobbiamo, io, voi, quello che sta davanti a voi in macchina, noi dobbiamo cambiare e migliorare il mondo. Ecco, allora, oggi io, siccome non sono sicuro di farcela, voglio parlare con voi e rispondere a questa domanda e sentire le vostre risposte. Fate qualcosa per cambiare il mondo? Avete migliorato, cambiato la vostra vita per essere più ecologisti, più ambientalisti, per impattare di meno su questa terra, per farla durare di più? Se l'avete fatto, se ci state provando, se siete del partito vorrei ma non posso, 800 24 00 24. Sintomatologia. Forse dovreste prendere in considerazione questo stile di vita se, quando cantate sotto la doccia, riuscite a finire tutta la discografia di Battisti. Il servizio di nettezza urbana vi ha proposto un cassonetto personalizzato. La cicala delle favole, in confronto a voi, è Paperon de Paperoni. Pensate che l'effetto serra sia un problema dei falegnami. L'unica cosa che riuscite a riciclare sono i regali brutti che vi fanno a Natale. 800240024 per parlare in diretta con noi. Questa è Giro di Vita, il programma che vi racconta storie di chi ha inventato un nuovo inizio, di solito per se stessi. Di solito noi vi raccontiamo storie di chi è partito, oppure senza partire ha cambiato vita personalmente. Il venerdì però non vi raccontiamo storie particolari, ma cerchiamo di parlare di cambiamenti domestici, quotidiani, di scoprire insieme a voi come si fa a migliorare un pochino la propria vita, il mondo che ci circonda, senza fare cose traumatiche o cambiamenti eccessivi. Diciamo, è venerdì, ce la prendiamo un po' più calma. E questa è Radio 24, io sono Achille Corea e io per primo oggi cercherò di capire cosa posso fare per migliorare il mondo e l'ambiente. Ad esempio, entrando in studio oggi, Gloria Guerrera mi ha visto con la bottiglietta piccola dell'acqua e mi ha detto: perché non prendi una bottiglia più grande, che magari consumeresti meno plastica? Io già lì ho pensato: non basterebbe nemmeno quella, dovrei venire con una caraffa, riempirla sotto il rubinetto, perché poi inizi e non sai dove finisci. Vabbè, e se volete commentarci su Facebook abbiamo una pagina che si chiama Giro di Vita, se volete chiamarci 800240024. Io intanto comincio a parlarne con Andrea Poggio, che è il vice direttore generale di Lega Ambiente. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Poggio, noi l'abbiamo chiamata anche perché lei è autore di alcuni libri che a noi sembravano veramente interessanti. Ad esempio, Vivi con stile, che non è un libro, diciamo, su come abbinare meglio, diciamo, i vestiti o appunto lo stile, diciamo, della moda, ma sono 160 consigli pratici per una vita a basso impatto ambientale. Cominciamo con qualcosa di semplice, non spaventiamo troppo chi ci ascolta. Partiamo dalle cose basilari che ognuno di noi può fare. Beh, io inizierei da una cosa che ha accennato lei proprio al debutto della mia introduzione, e cioè se uso andare in giro con una bottiglietta di plastica, io non ho niente da osservare, soltanto un suggerimento: invece di portarsi dietro dell'acqua che ha comprato, immagino in un negozio o in un bar, continui a approvvigionarsi con quella stessa bottiglietta sciacquandola ogni volta dal rubinetto, ma non per pauperismo o per salvare l'ambiente, ma perché le conviene, perché quell'acqua, se non la sostituisce costantemente, avrà una carica batterica nel giro di qualche ora che è inaccettabile per l'acqua del rubinetto di un comune. Quindi il sindaco avrebbe dovuto metterla come acqua non bevibile per tutto il territorio del comune. Quindi le conviene sostituirla ciclicamente con acqua fresca e corrente del rubinetto, usando sempre la stessa bottiglietta, non una più grande che può essere scomoda da portare dietro. La stessa indicazione valgono per tanti altri consigli, come risparmiare energia guidando l'automobile piuttosto che in casa propria, diminuendo i costi della bolletta, quindi facendo del bene a se stessi. Insomma, più che essere scelte indotte dal fatto che il pianeta si esaurisce, dovrebbero essere scelte indotte dal buonsenso per risparmiare sulle proprie tasche e vivendo meglio, bevendo acqua più pura. Un esempio che vale in questi giorni, visto che tra poco tornerà il bel tempo in tutta Italia e si sente già afa che sta arrivando per l'eccessiva umidità: è inutile avere gli impianti di condizionamento a manetta. Il suggerimento dei medici per gli impianti di condizionamento è di tenersi intorno ai 26-28 gradi, non 20 gradi. I 20 gradi sono suggeriti per l'inverno, quando si vive con un maglione; d'estate si vive in camicetta, e quindi il negozio che tiene a 20 gradi vuol dire che pensa che io sia d'inverno e che entri col cappotto. Sbaglia completamente, forse per quello che ci sono tanti raffreddori anche d'estate. Senta Poggio, ma allora, vivere, diciamo, a minore impatto ambientale non è difficile, sembrerebbe, e si risparmia anche, perché per la maggior parte si va a intaccare sul fatto di non usare troppo, di non sprecare troppo. Allora, secondo lei, cioè, non c'è forse nemmeno più la terza cosa, non c'è nemmeno più una questione di mancanza di consapevolezza, visto che ne parliamo da tanto tempo, siamo anche un po' terrorizzati da certe cose. Allora, secondo lei, perché c'è ancora bisogno di dirlo? Perché non lo facciamo ancora bene? In realtà non lo si sa abbastanza. Io l'altro giorno ho dovuto prendere di corsa un taxi, salgo in camicetta tutto sudato e dentro il gelo. Trovo l'autista che è vestito leggero come me, soltanto che in più c'è una giacca vento. Gli chiedo se può alzare un attimo la temperatura perché si gela. Beh, vedo che smanetta lì con tutto il computer di bordo, passa da 21 gradi a 21 gradi e mezzo. Non lo so, non ho avuto neanche il coraggio di dirgli niente, perché dovevo scendere a breve. Vuol dire che questa coscienza non è troppo diffusa, e oltretutto non fa neanche il suo interesse, perché l'impianto di condizionamento gli fa consumare più gasolio. Forse aveva una bella giacca a vento comprata ai saldi e voleva sfoggiarla. Non so se mi rimane un po' lì, perché magari cominciamo a sentire un'ascoltatrice che ha chiamato all'800240024. Valeria, pronto? Ciao, pronto. Valeria, cosa fai per migliorare, diciamo, per diminuire il tuo impatto ambientale? Ma allora, diciamo, tante piccole cose, quindi le classiche: fare le scale a piedi, per non usare l'ascensore, piuttosto che spegnere la luce in ogni stanza quando non ci siamo dentro. Però la cosa magari un po' più impattante che ho fatto è stata, ormai da un paio di annetti a questa parte, di smettere di bere l'acqua dalle bottiglie e iniziare a bere l'acqua dal rubinetto, cioè cosa che assolutamente non avevamo mai fatto, e si è aperto quindi un mondo nuovo per noi. Primo, perché abbiamo scoperto che effettivamente l'acqua del rubinetto è buona. E secondo? E secondo perché E secondo, perché siamo andati a risparmiare a livello economico proprio nostro sull'acquisto di casse e casse di acqua, e risparmiamo tantissima plastica, perché comunque siamo una famiglia di 4 persone, per cui comunque il nostro consumo di acqua è elevato, no? Per cui erano proprio, a parte anche la fatica di andare sempre a comprare queste casse, caricare la macchina, portarle su in casa, per cui diciamo c'è un risparmio a più livelli. Valeria, adesso stai facendo una bellissima figura, però dici invece una cosa che non riesci a fare, una cosa che trovi faticoso. Guarda, te lo volevo anche dire, perché magari potrei avere degli spunti da voi. Una cosa che non riesco assolutamente a fare è usare i mezzi pubblici. Io vorrei risparmiare tantissimo, quindi il mio impatto ambientale, non utilizzando più l'auto. Abito in una grossa città come Milano, che quindi comunque è servita, ma è complicatissimo, anche perché io ho 2 bambini piccoli, mi muovo con passeggini, e ti assicuro che gli accessi alle metropolitane non ci sono le rampe magari di accesso per, ma sia chi ha passeggini sia chi, per i disabili che hanno le carrozzine. In alcuni punti trovi gli ascensori in alcune stazioni, ma non in tutte. Ho capito. Guarda, noi abbiamo fatto una puntata, intanto grazie Valeria per averci chiamato, abbiamo fatto una puntata qualche tempo fa sull'usare l'auto, i mezzi pubblici. Il paese si divide su questa cosa, magari comunque ne parliamo anche tra un pochino. Poggio, la questione dell'acqua, però non è, mi rendo conto, così semplice, perché poi la gente dice ma l'acqua del mio comune magari non è buona, oppure questi aggeggi che filtrano l'acqua, ci si fida, non ci si fida. Io una volta ho provato a informarmi, mi è venuto un mal di testa incredibile, perché sui forum, sui giornali, un po' se ne parla bene, un po' se ne parla male. Lei che ci dice? Ma che nella grande parte dei comuni d'Italia l'acqua non è soltanto sicuramente sanitariamente più controllata dell'acqua minerale, perché questo lo dice la legge e tutte le analisi, ma in molti casi è anche buona da tutti i punti di vista, è tutta oligominerale. In alcuni casi può avere un sapore che non piace, beh, in tal caso spendete 1000 volte di più, perché l'acqua imbottigliata che si compra nei negozi costa 1000 volte di più dell'acqua del rubinetto. Fate come suggeriva la signora, la fatica di portarvi questo peso inutile dalla fontana lontana fino a casa propria, tornando a più di un secolo fa, quando l'acqua si andava a raccogliere dalla fontana e si portava a casa, e tornate al Medioevo, non c'è assolutamente nessun problema. D'altra parte, se io voglio un vino molto buono per una cena eccezionale, spendo anche una fracassata di soldi. Si può fare la stessa cosa per l'acqua minerale. Non ci sono divieti, secondo il mio punto di vista, nei nuovi stili di vita, ci sono soltanto delle cose, appunto, che si combinano bene con il vivere futuro. Quindi, ci sono delle scelte. Le chiedo di rimanere ancora qualche minuto con noi, così parliamo anche di questo argomento che viene sempre evocato, che è lo spostamento. E intanto ricordo ai nostri ascoltatori 800 24 00 24. We got 3 hours. We're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Come on. E questo era il cantante ecologista, surfista, naturista Jack Johnson, che ha dedicato questa canzone alle 3 R, in italiano riusa, riduci, ricicla, riutilizza. Cioè, questo è un po' quello che vorrei sapere da voi, perché poi gli ascoltatori di Radio 24 mi sorprendono sempre. Che cosa riutilizzate? Che cosa riuscite a riciclare? Che modi vi inventate per usare la roba di più e buttarla, sprecarla di meno? Prima di andare avanti, però, vorrei chiedere ad Andrea Poggio, che ricordo è anche vice direttore generale di Lega Ambiente, qualcosa sullo spostamento, perché io già i primi commenti che ho ricevuto su Facebook mi dicono: io impatto di meno perché vado al lavoro in bicicletta, o perché ad esempio Rossella scrive: ho venduto l'auto già nel 2000 e giro solo in bici. Cioè, questa è una battaglia importante, quella dei mezzi. Sì, ci scontriamo contro un problema, devo dire, molto diffuso per i nuovi stili di vita, e cioè, se non ci sono le infrastrutture necessarie, come si fa Non riguarda soltanto i trasporti, pensate al riciclaggio, visto che veniva citata la canzone delle 3R. Se non c'è la raccolta differenziata nel mio comune, io ho una bella voglia di dividere tutti i miei rifiuti, dopo non c'è nessuno che me le raccoglie in maniera separata. La stessa cosa riguarda i mezzi pubblici. Oltre però alle necessità di avere infrastrutture, mezzi, organizzazione, servizi che devono aiutare la sostenibilità degli stili di vita futuri, dobbiamo pensare che però ci sono delle scelte individuali. Io, per esempio, non dovendo muovermi con dei bambini, ho la vita più semplice, parto da casa mia in bicicletta, vado alla stazione di Lodi tutte le mattine quando devo recarmi al lavoro, riesco a portarla sul treno perché esiste un apposito abbonamento, quasi tutti i treni pendolari consentono di portarmi la bicicletta, e poi sbarco a Milano, vado in ufficio in bicicletta e giro Milano in gran parte in bicicletta. Pensate che per fare la spesa ci sono dei supermercati che hanno messo a disposizione della propria clientela delle carrettini che si agganciano alle biciclette, invece di avere i carrelli della spesa fuori ci sono i carrettini della bicicletta, una bella comodità per quei paesi e per quelle cittadine dove ci si muove agevolmente in bici. Insomma, i modi ci sono, bisogna cercarli un pochino. Non sempre, perché quello della mobilità è un problema vero. Mezzi pubblici e mobilità sostenibile spesso è impedito nelle nostre città, però ultimamente vedo che invece si diffonde. A Milano l'uso della bicicletta si è diffuso moltissimo, è quasi raddoppiato, pur essendo uno spostamento minoritario negli ultimi anni. Io ringrazio Andrea Poggio e ricordo anche un'altra pubblicazione con Maria Berrini, Green Life, guida alla vita nelle città di domani, sperando che siano meglio di quelle di oggi. Grazie per essere stato con noi. L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. E questo, diciamo, era un modo individuale per poter risparmiare qualcosa anche riciclando, riutilizzando questo di cui stiamo parlando, perché poi io lo so, ma non vorrei andare su quel settore, ci sono delle cose che se non si fanno a livello di collettività, se non si fanno a livello diciamo alto, poi non si fanno in nessun modo. Però io oggi vorrei essere nello spirito, soccomberò, però almeno il mio l'ho fatto, e quindi questo vorrei sapere da voi all'800240024. Intanto mi faccio aiutare da Serena Viviani, che è autrice di un libro che si chiama Acquistare Eco, come, dove, perché. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Ecco, io l'abbiamo chiamata perché secondo me già partire dall'acquisto comunque è un'ottima cosa, quando uno fa la dieta. Io l'unica dieta che riesco a fare è quella di non comprare le cose che poi mangerei, e forse quindi se uno non parte dalla spesa difficilmente può avere una vita sostenibile. Ci dà qualche consiglio? Sì, come ha detto lei, anche il non comprare potrebbe essere un'ottima indicazione, perché nel dubbio, non soltanto per amore di ecologia, nel dubbio se un prodotto sia più o meno dannoso, che cosa contiene, non riusciamo a capire bene, insomma non comprare, siccome in genere si tratta di cose assolutamente inutili, può essere già una buona idea, come diceva lei, come quando si fa la dieta, ci fa risparmiare e si evitano conseguenze. Volevo dire una cosa a proposito del contributo individuale. A me piace pensare, questo è lo spirito con cui ho scritto il libro, che ci siano tante motivazioni nel portarci a fare acquisti meno inquinanti, se non proprio eco e bio e quant'altro, meno inutili e meno inquinanti. Uno è l'amore per il pianeta, ma non tutti lo sentono sulla propria pelle. Poi c'è la salute, e quello magari lo sentiamo già un po' di più. Poi c'è il gusto, perché parlando di alimenti, andando nel campo eco, si fanno delle scoperte di sapori molto molto migliori per molti motivi, Un altro è il fatto di in qualche modo riappropriarci delle nostre scelte, e questo mi piace molto, e piace anche pensare che possa in qualche modo a lunga scadenza muovere le cose. Perché se nessuno di noi comprasse più l'uva che arriva dal Cile, i pompelmi che arrivano dall'altra parte del mondo e le fragole a Natale, mi piace pensare che non verrebbero più importati. Ho capito, quindi un po' di diciamo una consapevolezza individuale sommata può anche aiutare a migliorare il mercato. Mi aiuta con un problema che io poi sento sempre come obiezione, cioè l'impatto, il mangiare bio, costa, è roba da ricchi. Assolutamente, questo l'ho premesso, è vero secondo me che se proprio si vuole strettamente fare una vita acquistando solo prodotti bio, oddio, crescono abbastanza i prezzi, però nel libro si danno anche un sacco di indicazioni pratiche, perché non è sempre vero, certo ci vuole un pochino di informazione, per esempio i famosi gruppi di acquisto solidali che si stanno diffondendo, la possibilità di comprare direttamente la produzione alcuni cibi, altra cosa si sta diffondendo, i detersivi bio vengono venduti anche alla spina con dei costi molto inferiori, le vernici non inquinanti, molte sono fatte in maniera anche di avere una resa migliore, quindi i conti in realtà andrebbero fatti un pochino bene. Tornando un secondo al discorso di prima, dicevo che una cosa molto appassionante quando si comincia a entrare in questa campo è proprio il fatto che si è costretti a informarsi, mentre quando andiamo in un grosso supermercato, cosa che confesso facciamo tutti, almeno ogni tanto, ci lasciamo un po' tanto guidare dai prezzi, dalle etichette, dalla marca famosa, quando si fa una scelta un po' più consapevole, si è costretti a capire, a leggere le etichette, a comparare i prezzi, a informarci su altre possibilità di acquisto, internet per esempio ormai è una fonte incredibile, e secondo me a lungo andare questo è molto bello, dà molta soddisfazione, ti dà l'idea di essere tu a fare delle scelte, a decidere cosa mettere in bocca, mettere in casa, cosa acquistare, perché è chiaro che quando si va in questa direzione non si può andare senza consapevolezza, cioè entrare, si può anche fare per carità, entrare in un supermercato bio e comprare ciecamente, ma è difficile che chi fa queste scelte abbia questo spirito. Ci si prende gusto, insomma. Ci si sente anche forti. Sì. Proprio si aprono dei mondi molto interessanti. Bene, speriamo che ci prendano gusto i nostri ascoltatori. Io ringrazio Serena Viviani, ricordo il suo libro Acquistare Eco, come, dove e perché. E vi ricordo anche il nostro numero 800 24 0024. Vorremmo tutti un mondo nuovo, ma il mondo nuovo da solo non verrà. Vorremmo tutti un mondo nuovo, ma il mondo nuovo da solo non verrà. Vorremmo tutti un mondo nuovo, ma ce lo dobbiamo fare noi da sole, credo, spero, voglio essere ottimista oggi. Eros, pronto? Pronto, ciao, buonasera. Eros, cosa fa per il mondo nuovo lei? Ma io è già da qualche tempo che utilizzo sia per ricaricare l'MP3 che il cellulare e quant'altro, dei pannellini fotovoltaici, e quindi non uso più la corrente della spina, ecco. Diciamo li ha così. Comprati? Se li è fatti? Ma io sinceramente me li sono fatti, però li trovi tranquillamente anche su eBay, tanto per dire un sito di commercio elettronico. Costano meno di un caricabatterie da cellulare normale, perché con 10 euro te lo compri, quando il caricabatterie magari ti costa 14-15, e basta che lo metti sulla finestra al mattino, la notte ti carichi il telefono. No, perché mi hanno scritto interna. Qui il suo titolo di studio, che è ingegnere aerospaziale, quindi non vorrei fosse una cosa che è eccessivamente complicata, ma si comprano anche. Sì, si comprano anche, sono più compatti di quello che mi sono fatto io, infatti io ne ho due, uno per me, uno per mia moglie, uno l'ho fatto e uno l'ho acquistato. Bene, è un utile suggerimento, poi io quando sento 10 euro, 20 euro, dico sempre... Sì, ma anche meno, sai, guarda, con 10-12 euro li compri, l'unica attenzione che devi fare è di trovare quello che ha il plug, quindi la spina di connessione al telefono, per il tuo telefono, però tendenzialmente ne hanno 5-6 all'interno della confezione, quindi non è un problema. Bene, mi sembra un ottimo suggerimento, sentiamone un altro paio al volo. Guido, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Qual è il suggerimento di Guido? Ma il suggerimento è che io ho il problema della mobilità, abito in un paese dell'Oltrepappavese, non posso fruire dei servizi pubblici perché sono pressoché inesistenti, e comunque per lavoro arrivo da percorrere 70.000 km l'anno. E il mio problema l'ho risolto acquistando auto vecchie, magari destinate a demolizione, nel senso che ormai vengono considerate vecchie auto di 10 anni, sono ancora validissime, trasformate a metano e faccio chilometri e chilometri spendendo pochissimo di prezzo d'acquisto, non inquino perché vado a gas e non contribuisco a quella ignobile campagna della rottamazione solamente per sostenere le case automobilistiche. Diamo un incentivo, io so che perché lo so quanto più o meno si spende. Quanto costa un pieno di un'auto a gas? Beh, io ho un'auto di 17 anni fa, una Ford Fiesta, con 10 euro faccio 300 km e viaggio generalmente in collina, conseguentemente in pianura potrei anche percorrere più chilometri. Ecco, 10 euro, quando uno sente 10 euro il pieno, secondo me ci pensa molto. Noi chiudiamo qui, ringrazio Valerio Rocchetti e per la parte tecnica Gloria Guerrera per l'assistenza. Riciclate, riutilizzate, fate qualcosa per questo mondo, ma tornate qui alle 16 di lunedì per un nuovo appuntamento con Giro di Vita. Statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.